2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 13 settembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Questa è la nostra prima puntata della versione autunno-inverno-primavera del 2008-2009 di 2024, quindi l'inizio della nostra stagione. Come del resto avete sentito durante la settimana, gran parte delle nostre trasmissioni sono riprese con la normale programmazione autunnale, anche se l'estate non è finita, come si sente dalle temperature in buona parte dell'Italia. Bene, riprendiamo questa stagione. Oggi parleremo ampiamente di alcune novità relative al mercato dell'elettronica di consumo, con uno sguardo particolare sul mondo delle TV. Ma iniziamo questa settimana con una notizia che ha raccolto anche gli elogi dell'Unione Europea, sempre attenta ai problemi di privacy dei cittadini. Dopo numerose sollecitazioni sia dall'Unione Europea sia dagli Stati Uniti, Google ha deciso di dimezzare a 9 mesi il tempo di archiviazione dei dati personali sulle abitudini di navigazione su internet dei propri clienti. Per la Commissione Europea l'obiettivo sarebbe quello di portare il limite a 6 mesi, ma la decisione è comunque un buon segnale. La maggior parte dei dati di navigazione conservati e soprattutto analizzati da Google è di tipo anonimo, quindi non c'è naturalmente scritto nome e cognome, ci sono dei numeri, degli IP che sono i numeri identificativi della rete, e poi ci sono tutta una serie di dati che raccontano di che cosa fa quel particolare computer, quel particolare navigatore. Poi naturalmente dietro a un computer, dietro ad un navigatore, un browser, un programma di navigazione, c'è un cliente. A Google interessa sapere che tipo di abitudini abbiamo, quali sono gli utilizzi che facciamo della rete. Dicevo che molti di questi dati sono di tipo anonimo, ma poiché servizi come Gmail permettono la raccolta di dati sempre più accurati e precisi sulle nostre abitudini, si moltiplicano le richieste di tutela della privacy. Uno degli ultimi motivi di dibattito è Chrome, il browser, il programma di navigazione lanciato da Google, che è stato criticato proprio per la raccolta di informazioni un po' troppo massiccia. Di questo parleremo la prossima settimana, per capire soprattutto quali dati vengono raccolti, come vengono analizzati, anche se non è possibile capire tutto, molti di questi sono segreti industriali di Google, e soprattutto cercheremo di capire anche perché c'è così tanta attenzione sui programmi di navigazione. Naturalmente sapete che il programma più diffuso, con oltre l'80% del mercato, è Internet Explorer della Microsoft, ma ci sono tanti altri progetti. Abbiamo parlato recentemente, ed è anche il programma che noi consigliamo, abbiamo parlato, dicevo, di Firefox, che è arrivato già alla versione numero 3, e oggi anche Google si butta in questo mercato, ma ci sono altri navigatori. Perché tutta questa attenzione? Beh, cercheremo di capire il perché la prossima settimana. A proposito di software open source e gratuiti, dicevamo poco fa di Firefox, dicevo a proposito di altri software di questo tipo, è notizia di questa settimana che la versione italiana di OpenOffice ha superato i 3 milioni di download, quindi è stato scaricato almeno 3 milioni di volte nel 2008, tra poche settimane arriverà la versione 3.0. YouTube ha lanciato un concorso per aspiranti reporter, quindi giornalisti che sono capaci di realizzare video oltre che inchieste. YouTube mette in palio una borsa di studio di 7.000 euro da utilizzare per realizzare un servizio giornalistico. Tutte le informazioni sono su ityoutube.com. Project Report, questo è il nome di questo progetto, ripeto, Project Report. Naturalmente metteremo anche sul nostro sito un link. La prima fase di selezione prevede la realizzazione di un video della durata di 3 minuti che racconti la storia di un membro di spicco di una comunità locale. Il video andrà inviato entro il 6 di ottobre. Questa settimana Apple ha presentato un aggiornamento di due modelli di iPod, il Touch e il Nano, che ora è più sottile, disponibile anche da qualche giorno un aggiornamento del software degli iPhone, un aggiornamento che dovrebbe risolvere una serie di problemi che il telefono di Apple ha avuto questa estate. Abbiamo parlato ampiamente dell'arrivo dell'iPhone, ma abbiamo parlato anche delle polemiche, delle critiche, dei problemi che ci sono stati. Bene, questo aggiornamento dovrebbe mettere a posto una serie di problemi. C'è anche una nuova versione del software iTunes, ma nessuna grande novità. Alcuni sono rimasti un po' delusi da questa presentazione, ma certo non sempre si possono fare scoppiare i fuochi d'artificio. Apple, lo ricordiamo, mantiene una quota nel mercato dei lettori MP3 pari al 70%, mentre Microsoft lotta ancora per imporre il proprio Zune. La percentuale del mercato è veramente minima, irrisoria, soprattutto negli Stati Uniti, per non parlare dell'Europa, dove è quasi inesistente. Finora, dicevo, non ci sono stati grandi successi, ma c'è una funzione dei nuovi prodotti che verranno lanciati martedì, il 16 settembre, una funzione che merita attenzione, molto particolare, e fa piacere a chi lavora in una radio diffusa in FM questa particolare funzione, che non riguarda una radio come Radio 24, ma riguarda la musica, ma pur sempre è importante che si parli di radio. Il nuovo Zune, a differenza della Apple che si ostina a non mettere la radio FM nell'iPod, ha una funzione chiamata Buy from FM, cioè compra dalla FM, che permette di riconoscere un brano musicale trasmesso alla radio e acquistarlo direttamente dal proprio lettore se è collegato ad internet tramite Wi-Fi, oppure di comprarlo in un secondo momento. È possibile mantenere in memoria questa traccia. Negli Stati Uniti sono già 450 le radio intenzionate di implementare questo servizio, che si basa sull'RDS, e quasi tutti sanno che cos'è l'RDS, che oltre ad inviare il nome della stazione, in questo caso invia un codice che identifica la canzone. Lo Zune riconosce questo brano e, se si vuole, poi lo si compra tramite il negozio della Microsoft. Secondo l'azienda di Redmond, il 61% degli ascoltatori scopre le novità musicali ascoltando la radio, quindi questa sembra una buona idea. Parliamo del mercato degli smartphone, i telefonini che, come i PC, permettono di installare applicazioni, poi sempre più spesso sono dotati di fotocamere, sempre più potenti, GPS, collegamento Wi-Fi, Bluetooth, eccetera, eccetera. Bene, questo mercato è un mercato molto interessante, ancora un mercato di nicchia, dominato anche in questo caso da Nokia, che ha una percentuale che nel secondo trimestre è scesa dal 50,8 al 47,5%, comunque ancora una percentuale molto interessante. Raddoppia invece la propria quota di mercato RIM, la produttrice del BlackBerry, che sale al 17,4%. Il segmento smartphone vale circa un decimo dell'intero mercato della telefonia mobile in termini di volumi. Si tratta però di un'area molto interessante dal punto di vista del valore. Quindi ci sono un sacco di soldi da guadagnare, sia perché i prodotti costano alcune centinaia di euro e comunque molto di più di un normale telefonino, e soprattutto perché sugli smartphone si può costruire un ricco mercato di servizi. Il caso di successo più noto è quello del BlackBerry, che ha lanciato il concetto di email in mobilità, e non è un caso che Microsoft e Nokia abbiano da tempo lanciato la sfida al BlackBerry. E l'ultima novità riguarda un accordo per consentire a chi ha un telefono Nokia e lavora con un'azienda che usa Exchange per la posta elettronica, l'accordo e questa novità permette di installare gratis Mail for Exchange sul proprio telefono. In questo modo è possibile quindi vedere e sincronizzare la posta aziendale sul proprio telefono, e Nokia parla di 80 milioni di dispositivi già abilitati in tutto il mondo. Secondo uno studio dell'Università di Oxford in Gran Bretagna e Oviedo in Spagna, le migliori connessioni internet d'Europa, sapete dove sono? Sono in Svezia e Olanda, e questo grazie a investimenti effettuati nella cablatura in fibra ottica. Lo studio è basato sulle rilevazioni effettuate attraverso un sito che si chiama speedtest.net, che fornisce agli utenti un'analisi sulla velocità di connessione. A maggio sono stati effettuati 8 milioni di test e secondo i ricercatori i paesi considerati avanzati come la Gran Bretagna, l'Italia, la Spagna e l'Austria offrono servizi di connessione a banda larga troppo lenti. Il paese primo classificato al mondo è il Giappone. Ne abbiamo parlato a 2024, recentemente abbiamo parlato del progetto Ubiquitous Japan per portare banda larga a un gigabit in tutto il paese. Secondo questa classifica quindi si conferma il Giappone il numero uno in fatto di banda larga, seguono Svezia, Olanda, Lettonia, Corea del Sud, Svizzera, Lituania, Danimarca, Germania e Slovenia. Beh, forse non è una sorpresa che al primo posto, dicevo, c'è il Giappone e in una buona posizione c'è la Corea del Sud o la Svizzera, ben piazzata anche la Germania e la Danimarca. Forse sorprende che ci siano la Lettonia e la Lituania tra i primi 10. Gli Stati Uniti e la Russia figurano al 16° e 17° posto. Ricordo un appuntamento che si sta svolgendo a Riva del Garda fino a domani, c'è la prima Blogfest italiana, una serie di incontri dedicati ai blogger, di questo parleremo molto probabilmente la prossima settimana. Bene, dicevo all'inizio della nostra trasmissione che oggi ci vogliamo occupare di elettronica di consumo, ci sono molte novità in arrivo in questo autunno, nel prossimo autunno. Saluto il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Durante l'estate abbiamo anticipato ai nostri ascoltatori che ci saremmo occupati di TV, del resto anche su AF Digitale in edicola da pochi giorni con il numero di settembre. Voi vi occupate ampiamente di alta definizione, che è un po' il tema di questi anni, e di TV perché sul settore ci sono parecchie novità. Raccontiamole brevemente. Tu quest'estate ci hai anticipato una sorpresa del mercato, cioè TV sottilissime. Sì, dopo le TV piatte o schermo piatto, quindi non più a tubo catodico, adesso bisogna passare a un'altra categoria. I TV diventano sempre più sottili, anche proprio il telaio, e quindi dalla decina di centimetri, attualmente la profondità di un grande schermo, si passa prima a una categoria, diciamo, intermedia che è intorno ai 3-4 centimetri e si arriva anche a spessori nettamente inferiori, anche sotto il centimetro. Quindi decisamente interessanti. Devo dire, da tecnologo verrebbe quasi da dire interessanti come pura curiosità tecnica e poco più. Invece i primi approcci anche che il pubblico ha fatto alle fiere internazionali, dove si sono potuti vedere i primi prototipi che presto arriveranno sul mercato, beh, l'impatto è incredibile dal punto di vista del design. Questi TV di cui non si riesce a scorgere più un pannello posteriore, quasi perché sono quasi dei fogli, hanno un peso, anche dimensioni di schermo molto grandi, un peso quasi evanescente, spariscono, sono molto belli dal punto di vista del design, quindi piacciono anche molto al pubblico femminile che apprezza un design proprio leggerissimo, e questo sicuramente darà una svolta rilevante al mercato perché in molti sceglieranno di cambiare il TV. Anche per questo motivo. Senti, io ho visto soltanto delle fotografie, poi gli ascoltatori li potranno vedere ed apprezzare anche su AF Digitale, anche sul vostro sito internet. Direi quasi che oggi il limite sono le connessioni, cioè il pannello si sta restringendo sempre di più, cioè diventa sempre più sottile, ma più di tanto non potranno arrivare, perché le connessioni comunque dietro ci devono essere. Sono due i limiti con i quali bisogna confrontarsi progettando un TV di questo tipo. Uno sono sicuramente le connessioni, quindi le prese, la famosa presa SCART, solo essa entra nel TV per un paio di centimetri, quindi come fa un TV spesso solo un centimetro a ospitare una presa scarpe? Non ha le scarpe. È molto complesso. No, ce le ha, ma una modalità diversa che adesso magari vediamo. E poi c'è il secondo problema da risolvere, ma lo vediamo tra poco, anzi lo ascoltiamo tra poco dalla voce di Gianfranco Giardina. Questo è 2024, riprendiamo tra circa un minuto. Non vi ho ricordato, come sempre faccio all'inizio della nostra trasmissione, ma c'è tempo per ricordarlo altre volte, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con la nostra redazione, 2024, scritto in cifra, 2024, è radio24.it. A tra poco. Anche questa puntata di 2024 sarà disponibile sul nostro sito internet in formato digitale MP3 grazie al servizio podcast per aggiornare e scaricare e aggiornare settimana dopo settimana la nostra trasmissione. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it, naturalmente nelle pagine di 2024 e in particolar modo quelle dedicate al servizio podcast, oppure in alternativa potete inviarci una email a 2024@radio24.it e molto volentieri vi risponderemo con le istruzioni per abbonarvi al servizio podcast che vi dà la possibilità di scaricare il file MP3 e poi riascoltarlo quando volete sul vostro computer, sul lettore di file MP3 oppure, come fanno alcuni ascoltatori, potete realizzare una compilation di trasmissioni, metterle su CD o su una chiavetta USB e riascoltarle nella vostra autoradio o qualsiasi altro strumento che è dotato di connessione USB oppure che può leggere un CD. Insomma, ci sono varie modalità e spazio alla fantasia anche in questo caso. Dunque, vi ricordo e sono lieto di annunciarvi che dal 6 di settembre il nostro archivio digitale, quindi anche le vecchie trasmissioni che troverete online sul nostro sito internet, sono salvate in formato MP3. Quindi abbiamo abbandonato dal 6 settembre il formato Real Audio per passare al più comodo formato MP3, come del resto molti ascoltatori ci avevano chiesto in passato anche durante l'estate, quindi abbiamo fatto questo passaggio. Naturalmente tutte le puntate che sono precedenti al 6 di settembre rimangono in formato Real Audio, non possiamo certo fare un upgrade della qualità audio delle vecchie puntate, ma dal 6 settembre e per il futuro tutte le puntate che troverete in archivio sono salvate in formato MP3, quindi molto più semplici. Stiamo parlando con Gianfranco Giardina, il direttore di AF Digitale, di nuove tecnologie nel mondo dei televisori sempre più sottili. Gianfranco ci sta raccontando alcune novità che arriveranno sul mercato molto presto. Gianfranco ha girato un po' il mondo durante quest'estate in alcuni appuntamenti fieristici o alcuni appuntamenti riservati alla stampa specializzata. Dunque, allora Gianfranco, abbiamo detto che ci sono sostanzialmente due limiti per fare e produrre, progettare TV sempre più sottili. Uno è quello delle connessioni. L'altro, il secondo problema? Il secondo problema è l'audio. Un diffusore audio per un TV, per quanto miniaturizzato possa essere, per quanto ben ingegnerizzato possa essere, anche con i nuovi materiali, ha bisogno di un certo spessore, se no le frequenze, le basse frequenze, le basse e medie frequenze non escono. E ci sono proprio dei problemi fisici. Sì, ci sono proprio dei problemi fisici, quindi dopo si potrebbe comunque avere un TV che suona, ma probabilmente suona male. Avere un TV magari sofisticatissimo dal punto di vista delle immagini, ma che suona male o che va a innalzare molto il volume per avere un'intelligibilità del parlato. Invece una delle cose che abbiamo detto è che con l'arrivo dell'alta definizione migliora anche l'audio, quindi sarebbe paradossale avere una TV molto bella dove magari si vede una ottima immagine ma un brutto suono. Quindi che cosa si sta facendo? Ecco, noi ci eravamo fermati appunto quest'estate con questo dubbio: come faranno gli ingegneri? Ecco che sono incominciate ad arrivare delle soluzioni. Allora, per quanto riguarda il discorso degli ingressi di cui abbiamo parlato, cambia in qualche modo l'architettura del TV, quindi non più tutta l'elettronica e gli ingressi a bordo che occupano spazio e proprio per le prese richiedono spessori più importanti, ma un media box esterno, quindi si va verso quella direzione, avere un box esterno che gestisca il segnale d'antenna, quindi abbia il tuner integrato, quindi il cavo d'antenna andrà collegato a questo box, gestisca tutti gli ingressi, quindi i DVD player, i videoregistratori, i decoder vari verranno attaccati a questo box, e un solo cavo con un connettore opportunamente furbo, ma più probabilmente sarà sempre più un connettore HDMI digitale, che collega questo box al televisore. In questo modo si semplifica molto l'elettronica del televisore, il televisore può diventare molto sottile, certo vi si aggiunge alla pigna dei box di casa un'altra scatola. Ovviamente questo, se da un lato complica un po', come dire, la famosa pigna degli apparecchi di casa, in realtà porta molte semplificazioni. Basti pensare alle lunghezze dei cavi. Siccome tutti gli apparecchi andranno collegati a questo box e non più al TV, i cavi diventano molto più corti. Posso con cavi cortissimi, probabilmente mezzo metro di cavo, collegare il DVD player al mio TV, il videoregistratore al TV, il decoder di Sky o il decoder digitale terrestre al TV, e non avere più tanti cavi che vanno verso il TV, quindi il tipico cavo che passa dietro il mobile, i tanti cavi che passano dietro il mobile, arrivano al TV, diventa uno solo. Questo semplificherà anche l'installazione a muro per chi vuole fare un'installazione a parete e non con supporto d'appoggio. Quindi non va visto come un male, anzi, va visto come un bene, un'esigenza che nasce dalla voglia di avere TV più sottili, in realtà semplifica anche il cablaggio e lo rende un pochino più ordinato, sì. Questa è una cosa sicuramente. Poi parleremo insomma delle tecnologie, perché non parleremo solamente di cavi, ma anche di altre tecnologie che favoriranno la dislocazione di questa pila di strumenti in giro per il salotto. Abbiamo parlato finora di spessori, non di dimensioni della TV, perché sono curioso, ho visto alcune foto, ma a volte dalle foto non ci si rende conto bene. Allora, TV nuove che arriveranno tra qualche settimana, qualche mese, che possono essere spesse meno di un centimetro, ma grandi quanto? Ma un modello che si è visto, che arriverà sicuramente, un modello già definitivo, quindi non un prototipo, che verrà sicuramente entro fine anno, sarà spesso 9,9 mm, quindi proprio sotto il centimetro, e avrà una dimensione di schermo di 40 pollici. Ah, però. Quindi uno schermo sicuramente grande, importante, e uno spessore direi quasi trascurabile. Il tecnologicamente è stato ottenuto utilizzando una retroilluminazione di nuova concezione, quindi LCD. È un LCD, però è retroilluminato a LED, quindi non con le lampade a fluorescenza, ma con delle lampade LED, che non sono messe posteriormente al pannello, perché sennò appunto occuperebbero spazio, ma sono messe lateralmente al pannello e utilizzano il vetro del pannello come guida d'onda per distribuire la luce su tutto il pannello. Incredibile. Insomma, una bella complicazione per una apparente semplificazione esterna. Il TV sembra assolutamente incredibile e non sembrerebbe poter essere un LCD, perché ha lo spessore di un LCD da computer portatile da 15 pollici, ecco, sì. Però è un 40 pollici. Senti, le prese SCART come si inseriscono nel Le prese SCART si inseriscono come dicevamo prima, cioè un box esterno. Ah, ok, quindi non ci sono sulla TV. Che dicevo? No, non ci sono sulla TV. Ecco. Sulla TV c'è soltanto una presa HDMI per una connessione diretta, perché comunque non è sempre garantita la connessione diretta solo in digitale. Tutte le altre connessioni analogiche ed antenna vanno fatte su questo box. Nello specifico, questo modello di cui stiamo parlando, che è un modello presentato da Sony, integrerà un'altra tecnologia. che è una nuova tecnologia di cui però non vogliamo anticipare nessun nome, nessuna sigla, è una tecnologia di cui penso pochi abbiano sentito parlare perché sta nascendo proprio in queste settimane, è stata da poche settimane definita e quindi i produttori possono cominciare a costruire con questa nuova tecnologia. Sicuramente rivoluzionaria, ne parliamo tra poco a 2024, vi aspettiamo qui su Radio 24. Seguiteci ogni settimana, 2024 va in onda tra le 15.30 e le 16.30 su Radio 24 nel pomeriggio del sabato, oppure come ricordavo poco fa anche su internet www.radio24.it, trovate le nostre puntate disponibili anche sul web a partire dal lunedì pomeriggio. Bene, come avete sentito poco fa con Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, stiamo parlando delle TV che arriveranno molto presto nelle prossime settimane, vedremo TV piatte sempre più sottili, abbiamo parlato di un modello in arrivo che è sottile meno di un centimetro, cominceremo a vedere soluzioni dove la TV è lontana o anche vicina, ma comunque indipendente dalla pila di strumenti che servono per alimentare la TV, ovvero il decoder, quello satellitare per il digitale terrestre, il lettore DVD, il lettore per il Blu-ray disc, questa tecnologia per l'alta definizione. Insomma, questi strumenti saranno collegati ad un box che si occuperà poi del collegamento alla TV. Poco fa dicevo che esiste una nuova tecnologia che permette questo tipo di collegamenti, nuova tecnologia che si chiama Wireless HD. In questi anni ci siamo abituati, o ci siamo dovuti, o ci dovremmo abituare ad una moltitudine di nuove sigle, e beh, ne aggiungiamo un'altra, che è Wireless HD, quindi tecnologia senza fili, Wireless HD sta per alta definizione, quindi grande banda, grande portata. Quindi Gianfranco, se ben capisco, possiamo mettere la TV o anche tutti questi strumenti dove vogliamo, in casa, in qualsiasi posto. Sì, nel posto più comodo, dislocare le due cose, disaccoppiare le due cose. Quindi il collegamento tra il box, il media box che gestisce tutti gli ingressi e il display vero e proprio non è più un collegamento a filo, ma un collegamento digitale senza fili, con una banda larghissima, quindi in grado di gestire il segnale a piena alta definizione, quindi assolutamente perfetto, in tecnologia digitale, quindi comunque protetto dai disturbi, e questo significa una cosa nuova, importante, il poter mettere l'elettronica tipicamente dove sta la borchia dell'antenna, normalmente, perché lì sì, è il problema, quindi collegare il box all'antenna e lì vicino mettere DVD player, videoregistratore, ricevitore satellitare, ricevitore digitale terrestre, tutto quello che si vuole, e prendere il display e dislocarlo nella stanza dovunque si voglia, purché ci sia ovviamente una presa di corrente. Alla presa di corrente il TV, il display deve essere collegato, sì. Però può essere anche spostato, può essere attaccato a una parete semplicemente senza bisogno di nessuna canalina, oppure può essere addirittura spostato in un'altra stanza, visto che la portata, che poi testeremo in laboratorio, è ben inteso, ma la portata teorica e dichiarata di questo sistema è di qualche decina di metri, quindi anche chi ha magari un giardino o magari ha un terrazzo e vuole spostare temporaneamente la TV sul balcone, cioè, non deve fare nient'altro che prendere una prolunga al massimo, quindi attaccare alla corrente e basta. Anche se si sta discutendo su tecnologie che permetteranno di trasferire la corrente elettrica via wireless, al momento non conosciamo tecnologie affidabili per fare questo. Quindi qua stiamo parlando di wireless HD, quindi alta definizione che viene trasferita con una tecnologia wireless. Non è una tecnologia che già conosciamo, cioè Wi-Fi o altro, è proprio una nuova tecnologia. No, è un consorzio al quale hanno aderito praticamente tutti i maggiori produttori di TV, che da qualche anno, da un paio d'anni, sta lavorando alacremente per mettere a punto questo standard di comunicazione, i lavori sono finiti, lo standard è rilasciato definitivamente, anzi a questo punto è applicato su prodotti che diventeranno commerciali entro Natale, quindi è un prodotto assolutamente finito ed è solo l'inizio, perché già si sono visti per esempio primi apparecchi trasmettitore e ricevitore in tecnologia wireless HD da applicare a sorgenti e display video di terze parti, quindi non già integrate nel plugin. Sì, l'applicazione tipica è il videoproiettore. Quindi io voglio avere un videoproiettore, ma non so come far arrivare fino al videoproiettore il segnale video. Prendo trasmettitore, ricevitore. Trasmettitore, ricevitore, e ho un videoproiettore senza fare nessun lavoro edile, che è una cosa non banale. Non banale. Senti, abbiamo parlato dell'audio, abbiamo detto che l'audio esce necessariamente dallo schermo, perché lo schermo è così sottile che non può accogliere nessun diffusore di buona qualità. Dove va a finire? Non nel box, immagino. Perché il box può essere spostato rispetto al TV, esatto. E quindi dopo l'audio non verrebbe più dal display. Ma era il secondo quesito, come faranno con l'audio. Allora, con l'audio le soluzioni che si sono viste sono fondamentalmente di tre tipi. Un primo tipo è per chi utilizza comunque il TV in un layout da appoggio, quindi con la base. La base, per ovvi motivi di equilibrio, non può essere così sottile come il TV, ma deve avere un appoggio un pochino più grande. Ecco, integrare il diffusore audio in questa base. Devo dire che si sono viste anche soluzioni molto eleganti. Bisogna andare a cercare che l'altoparlante è messo nella base, sennò di primo acchito non si vedrebbe. Molto, molto bello. Per chi invece ha intenzione di fare le installazioni a parete e quindi non utilizzare la base, e con queste TV sottili è molto bella, molto ci bella. Sono soluzioni pensate dai produttori di diffusori molto sottili, ma non così sottili come il display, da innestare sotto il TV, che riescono, come dire, a trovare il loro spazio, tenuto conto che il TV è sì sottile, ma per essere fissato a parete ha bisogno comunque di una staffa. La staffa ha una profondità almeno pari al TV, perché una staffa, quindi, per sottile che sia, un centimetro e mezzo lo porta via, e quindi utilizzando anche quello spazio si riesce a fare un diffusore da mettere sotto. La terza via è quella che comunque sta prendendo piede, è quella di avere non più un impianto home theater complicatissimo, 5.1 canali con un amplificatore, che comunque resta una soluzione per gli amanti dell'audio, ma avere una soluzione molto più semplice di diffusione, però con dei diffusori tradizionali, quindi un sistema diciamo stereo o stereo più subwoofer pensato per la visione televisiva, e quindi per fare da audio per la visione televisiva è un audio più importante di quello che riuscirebbe a fare il TV, ma anche di quello che riescono a fare i TV di oggi, perché non dimentichiamoci che i TV di oggi non saranno spessi un centimetro, ma sono spessi 5, 6, 7 centimetri, certo. Anche lì diventa difficile avere un audio profondo, con dei bassi profondi. Allora, la tendenza è quella di avere dei diffusori esterni che facciano il loro mestiere di diffusori e facciano anche poi la diffusione della musica, di fatto siano collegati a un piccolo impianto Hi-Fi. La nuova tendenza da parte dei produttori di TV è quella di creare degli impianti di questo tipo assolutamente coerenti per estetica e materiali con quelli del TV, in modo tale che non sembrino due cose diverse, ma il diffusore è fatto con lo stesso materiale del telaio del TV e l'elettronica, quindi la centrale, quello che è l'amplificatore, che poi ha normalmente anche un lettore di CD o di DVD, anche lui con la stessa estetica del TV. E generalmente, se si compra l'accoppiata, li si può comandare col medesimo telecomando. Quindi è come dire, la TV diventa un po' più verso un'ottica kit. Compro il solo display con l'audio di base, oppure compro il display col suo accessorio per avere un audio migliore. Senti, naturalmente stiamo parlando di TV già pronte per l'alta definizione. Assolutamente sì, Full HD. Senti, un dubbio, ogni 2-3 mesi mi risorge questo dubbio. Tu qualche tempo fa dicevi durante una trasmissione che fino a qualche mese fa la qualità di visione di un TV a tubo catodico ancora era migliore rispetto ai plasma e agli LCD. Oggi come siamo messi? A che punto siamo? Me lo dici tra un minuto? Perfetto. Ci siamo lasciati un minuto fa con questa domanda in sospeso per Gianfranco Gedena, che è una domanda che arriva spesso anche via mail a 2024, comunque che mi viene fatta personalmente da amici conoscenti, rispetto alla qualità del tubo catodico. A che punto sono arrivate le tecnologie LCD e plasma? Siamo a un punto in cui il trade-off tra la qualità del tubo catodico, ma le prestazioni in termini di risoluzione e di versatilità dei nuovi display incominciano a equivalersi. Mi spiego. L'immagine del tubo catodico ha ancora una naturalezza assolutamente invidiabile. Il problema è che il tubo catodico comunque è un display, se lasciamo stare prodotti professionali, comunque è un display a bassa definizione. Oramai non esiste più invece un TV LCD o plasma che non sia ad alta definizione, anzi quasi tutti tendono a essere Full HD. Con i contenuti in alta definizione che cominciano a diffondersi sempre di più, quello che vedo in termini di qualità d'immagine, di dettaglio, di nitidezza, di fuoco, con un display in alta definizione, con un display in bassa definizione non lo vedo. E quindi, come dire, incominciamo a dimenticarci piano piano della vecchia qualità dei tubi catodici e apprezziamo sempre più quella dei TV digitali, i quali funzionano, devo dire, oramai meravigliosamente, se hanno a disposizione dei segnali buoni. Funzionano abbastanza male, va detto, non verrà mai detto nelle pubblicità. Probabilmente, se non c'è un segnale buono. Probabilmente non verrà mai detto nei negozi, ma funzionano abbastanza male se vengono alimentati con un segnale non adeguato. Vedere un segnale d'antenna analogico precario con un grande schermo dà fastidio, primo perché lo schermo è grande, secondo perché lo schermo è digitale e quindi amplifica un po' questi problemi. Vedere una VHS che ha una risoluzione molto bassa su un 50 pollici non è un'esperienza gratificante. Se si vede lo stesso contenuto su un tubo catodico da 25 pollici, un po' perché lo schermo è più piccolo, un po' perché il tubo catodico un po' questi problemi li maschera, l'esperienza sembra migliore. In realtà il problema non sta nel TV, certo, sta nella sorgente, però visto che questi TV fanno vedere più cose e le fanno vedere più grandi, questi difetti si amplificano e quindi anche lì bisogna un po' capire chi compra oggi un TV a grande schermo ad alta definizione dovrebbe pensare contestualmente, per esempio, ad acquistare un lettore Blu-ray, un lettore Blu-ray per vedere in alta definizione. Un buon impianto d'antenna, prepararsi per il digitale terrestre, eccetera, di questo poi riparleremo e torneremo. Sempre, a proposito di tecnologia, ricordo che a gennaio, quando si tiene il Consumer Electronics Show negli Stati Uniti a Las Vegas, tu avevi parlato di una tecnologia che già si cominciava a vedere negli Stati Uniti, ovvero la tecnologia OLED. Poi spieghiamo di che cosa si tratta. Ne aggiungo un'altra perché mi viene alla mente anche una strana tecnologia chiamata SED. Che cosa si sta muovendo? Cioè si sta vedendo qualche cosa dell'una o dell'altra o di entrambe? Sì, si sta vedendo di OLED, una grossa vitalità. OLED è una tecnologia alternativa a plasma LCD che ha la caratteristica di essere cosiddetta self-emitting, quindi emette la luce, non come l'LCD che ha bisogno di una lampada che retroillumini il pannello. Quindi il pannello da solo, di per se stesso, emette la luce che è necessaria per costruire l'immagine e questo permette in realtà al pannello di avere delle caratteristiche molto particolari nel caso specifico di OLED. Fondamentalmente è sottilissimo, molto più sottile di quanto possa essere sia il plasma che l'LCD oggi. Cioè parliamo di pochi millimetri. Parliamo di un foglio. Addirittura i display OLED sono flessibili. Quindi si possono pensare applicazioni anche totalmente nuove da questo punto di vista. Consumano molto poco dal punto di vista anche del consumo energetico, e questo ha un valore ovvio per la tutela dell'ambiente, va da sé, ma anche un valore importante se pensiamo a questi display applicati su device portatili. che sì, ovviamente andando a batteria trovano un giovamento incredibile dai consumi bassi. Hanno una qualità d'immagine veramente incredibile, molto alta, e hanno un'ultima caratteristica importante, la capacità di avere un pixel molto piccolo. Il pixel molto piccolo in cosa si traduce? Poi in altissime risoluzioni anche su display piccoli. Quindi, diciamo, si presta particolarmente all'utilizzo su display piccoli e portatili oggi. Però è difficile sapere oggi che cosa succederà. Sicuramente questi display non sono più nei laboratori, ma sono diventati un prodotto commerciale. Commerciale da qualche mese negli Stati Uniti e fra qualche mese, probabilmente entro Natale, anche in Europa, anche in Italia. Concretamente che cosa potremmo aspettarci in termini di prodotto? Ci aspettiamo un TV che è già stato annunciato da 11 pollici, quindi molto piccolo, direi da scrivania, sì, con una qualità assolutamente stupefacente. Si resta incantati, perché è una cosa veramente molto nuova come realismo, qualità d'immagine e contrasto. Proprio questo principio di essere self-emitting fa sì che il pixel spento, il pixel nero sia totalmente spento, e quindi il nero è così profondo che i contrasti risultano molto forti. Difetto, c'è difetto, sempre un difetto. Ah, sì, c'è, sì. In questo caso il prezzo. Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma si attende che sia intorno ai 2000 euro. 2000 euro per un 11 pollici. È un po' molto. Ecco, a proposito di prezzi, la TV di cui tu prima parlavi, cioè 40 pollici LCD molto particolare, sottile, meno di un centimetro, costerà all'incirca? Allora, un TV di questo tipo che è sottile meno di un centimetro e ha la tecnologia wireless HD, sì, quindi entrambe molto nuova, le cose, quindi il massimo della tecnologia TV in questo momento disponibile, 40 pollici, verrà commercializzato a un prezzo che non credo sarà di molto distante dai 4.000 euro. Mentre TV simili, non nello spessore ma con la tecnologia wireless HD, anch'essi arriveranno a prezzi intorno ai 2005, sempre sul taglio da 40 pollici. Siamo all'inizio, quindi sono prezzi più alti dei TV, sì, certo, diciamo quelli che ormai oggi chiamiamo convenzionali. Però, insomma, chi vuole queste nuove tecnologie, sì, ancora i numeri... A proposito di prezzi, oggi parliamo poco di prezzi di prodotti, più che altro di tecnologie, di tendenze per i prossimi mesi, ma giusto per far capire agli ascoltatori che magari si sono persi qualche puntata delle precedenti di 2024, se uno vuole acquistare un prodotto oggi sul mercato full HD, perché questa poi è la tendenza, un prezzo entry level... Punto d'inizio per comprare un prodotto assolutamente di qualità, poi sì, sappiamo che verso il basso c'è di tutto. Certo, può tranquillamente stare intorno ai 1000 euro, non distante dai 1000 euro ci sono i primi TV Full HD sicuramente di marche al di sopra del mio sospetto. Insomma. 32 pollici? 32 a salire. Abbiamo parlato di wireless HD, abbiamo parlato di questa tecnologia OLED, una domanda sul SED, esiste qualche cosa oppure ancora siamo nei laboratori più... tecnologicamente avanzati? Allora, il SED per certi versi mi ricorda il plasma, allora, e mentre l'OLED mi ricorda l'LCD. Sì, L'LCD sì, nacque sulle calcolatrici portatili con i display piccolissimi, ed è quello che sta facendo l'OLED, di fatto sta partendo con i display piccoli e punta magari in un futuro a crescere. Pensare 10 anni fa a TV 50-60 pollici LCD sembrava una pazzia, oggi ci sono. Il plasma invece è sempre partito dal grande, non è difficile farlo piccolo, anzi più piccolo di fondamentalmente 37 pollici, c'è qualche esperimento a 32, ma diciamo non si riesce a fare. Sì. Ed è il SED, che è un'altra tecnologia alternativa molto interessante, però che per dimensione del pixel non può essere fatta più piccola una certa dimensione. Ecco, il SED è congelato in questo momento, il progetto, cioè esiste il brevetto, esistono le tecnologie, potrebbe essere prodotto, ma è congelato perché dovendo partire dai schermi grandi, comunque partirebbe da prodotti molto molto costosi, così costosi che difficilmente riuscirebbero a trovare un mercato. Cosa diversa è per l'OLED, che parte comunque da un costo per pollice molto alto, se vogliamo vederlo da questo punto di vista, ma siccome i pollici sono pochi, il prezzo è comunque in qualche modo accessibile. Se noi pensiamo all'11 pollici di cui parlavamo prima, a 2000 euro stiamo parlando quasi di 200 euro per pollice, ma se io 200 euro per pollice l'applicassi a un 50 pollici, ecco che il prezzo incomincerebbe a diventare molto più impegnativo. Parleremmo di 10.000 euro. Nessuno oggi comprerebbe un TV da 50 pollici a 10.000 euro, qualsiasi sia la tecnologia, qualsiasi siano le sue prestazioni. Bene Gianfranco, io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci offerto questo sguardo verso i prossimi mesi, ma anche per i prossimi anni, perché sicuramente queste cose si svilupperanno nei prossimi anni. Ci aspettiamo nei negozi presto alcuni dei prodotti che tu ci hai annunciato, sicuramente su AF Digitale in edicola, ma anche sul sito internet troviamo molte informazioni. Ci sentiamo presto. Assolutamente sì. Grazie, a presto. Grazie. C'è un'altra tendenza di mercato, un'altra tendenza tecnologica di cui parleremo poi in futuro in un'altra puntata di 2024, magari già dalla prossima settimana, ovvero l'integrazione sempre più forte tra il prodotto TV, il televisore e internet. Di questo parleremo prossimamente. Avete ascoltato una puntata di 2024 dedicata alle tendenze, alle novità, ai trend per le prossime settimane, i prossimi mesi nel mondo delle TV, con novità sicuramente molto affascinanti. Torneremo la prossima settimana. La prossima settimana parleremo di servizi geolocalizzati, i cosiddetti LBS, Location Based Services, con una novità che arriverà sul mercato appunto la prossima settimana. E poi ci sono varie altre novità interessanti di cui parleremo nella prossima settimana, molto più focalizzata su internet e telefonia mobile, su comunicazione, su GPS, eccetera eccetera. Scriveteci, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Il nostro programma è disponibile su internet su www.radio24.it e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Trovate le informazioni online sul nostro sito internet oppure potete richiedercele anche via email e così avrete la possibilità di aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Grazie a Luigi Borghi in redazione, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Radio 24, nel pomeriggio di sabato tra le 15.30 e le 16.30. Buon ascolto e buon divertimento con i nostri programmi. You are disconnected.